24° canto dell'Inferno. Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, 24° canto. In quella parte del giovanetto anno che il sole i crin sotto l'acquario tempra e già le notti al mezzodì sen vanno, quando la brina in su la terra assempra l'imagine di sua sorella bianca, ma poco dura alla sua penna tempra, lo villanello a cui la roba manca si leva e guarda e vede la campagna biancheggiar tutta, ond'ei si batte l'anca, ritorna in casa e qua e là si lagna, come il tapin che non sa che si faccia, poi riede e la speranza ringavagna, veggendo il mondo aver cangiata faccia in poco d'ora, e prende suo vincastro e fuor le pecorelle a pascer caccia. Così mi fece sbigottir lo maestro, quand'io li vidi sì turbar la fronte, e così tosto al mal giunse lo impiastro, che, come noi venimmo al guasto ponte, lo duca a me si volse con quel piglio dolce ch'io vidi prima a piè del monte. Le braccia aperse, dopo alcun consiglio eletto seco, riguardando prima ben la ruina, e diedemi di piglio. E come quei ch'adopera ed estima, che sempre par che innanzi si proveggia, così, levando me su ver la cima d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia, dicendo, sovra quella poi t'aggrappa, ma attenta pria, se è tal ch'ella ti reggia. Non era via da vestito di cappa, che noi appena, ei lieve e io sospinto, potavam su montar di chiappa in chiappa. E se non fosse che da quel precinto più che da l'altro era la costa corta, non so di lui, ma io sarei ben vinto. Ma perché male bolge in ver la porta del bassissimo pozzo tutta pende, lo sito di ciascuna valle porta che l'una costa surge e l'altra scende. Noi pur venimmo al fine in su la punta onde l'ultima pietra si scoscende. La lena m'era del polmon sì munta quand'io fui su, chi non potea più oltre, anzi m'assisi nella prima giunta. «Omai convien che tu così ti spoltre», disse il maestro, «che seggendo in piuma, in fama non si vien, né sottocoltre, senza la qual chi sua vita consuma, cotal vestigio in terra di sé lascia, qual fummo in aere e in acqua la schiuma, e però leva su, vinci l'ambascia con l'animo che vince ogni battaglia, se col suo grave corpo non s'accascia. Più lunga scala convien che si saglia, non basta da costoro esser partito. Se tu m'intendi, or fa sì che ti vaglia». Levami allor, mostrandomi fornito meglio di lena chi non mi sentia, e dissi, «Va, chi son forte e ardito». Su per lo scoglio prendemmo la via, che era ronchioso, stretto e malagevole, ed erto più assai che quel di pria. Parlando andava per non parer fievole, onde una voce uscì dell'altro fosso, a parole formar di sconvenevole. Non so che disse, ancor che sovra il dosso fossi dell'arco già che varca quivi, ma chi parlava a dire parea mosso. Io era volto in giù, ma gli occhi vivi non poteano ire al fondo per l'oscuro, perch'io, maestro, fa che tu arrivi dall'altro cinghio e dismontiam lo muro, che, com'i odo quinci e non intendo, così giù veggio e niente affiguro. Altra risposta, disse, non ti rendo se non lo far, che la dimanda onesta, si dee seguir con l'opera tacendo. Noi discendemmo il ponte dalla testa dove s'aggiugne con l'ottava ripa, e poi mi fu la bolgia manifesta, e vidivi entro terribile stipa di serpenti e di sì diversa mena che la memoria e il sangue ancor mi scipa. Più non si vanti Libia con sua arena, che se chelidri, iaculi e faree produce e cencri con anfisibena, né tante pestilenze né sì ree mostrò già mai con tutta l'Etiopia, né con ciò che di sopra il Mar Rosso è. Tra questa cruda e tristissima copia correan genti nude e spaventate, senza sperar pertugio o elitropia. Con serpi le man dietro avean legate, quelle ficcavan per le ren la coda e il capo ed eran dinanzi aggroppate. Ed ecco a un ch'era da nostra proda s'avventò un serpente che il trafisse là dove il collo alle spalle s'annoda. Né ho sì tosto mai né i si scrisse com'el s'accese e arse e cener tutto convenne che cascando divenisse. E poi che fu a terra sì distrutto, la polver si raccolse per se stessa e in quel medesmo ritornò di butto. Così per li gran savi si confessa che la fenice more e poi rinasce quando al cinquecentesimo anno appressa. Erba né biado in sua vita non pasce, ma sol d'incenso lagrime ed amomo, e nardo e mirra son l'ultime fasce. E qual è quel che cade e non sa come, per forza di demon ch'a terra il tira, o d'altra oppilazion che lega l'omo, quando si leva, che intorno si mira, tutto smarrito della grande angoscia che gli ha sofferta, e guardando sospira, tal era il peccator levato poscia. O potenza di Dio, quant'è severa che cotai colpi per vendetta croscia. Lo duca il domandò poi chi ello era, perché rispuose: io piovvi di Toscana, poco tempo è in questa gola fiera, vita bestial mi piacque e non umana, sì come a mul chi fui. Son vanni fucci, bestia, e Pistoia mi fu degna tana. E io al duca: dilli che non mucci, e domanda che colpa qua giù il pinse. Ch'io il vidi uomo di sangue e di crucci. E il peccator, che intese, non s'infinse, ma drizzò verso me l'animo e il volto, e di trista vergogna si dipinse. Poi disse: più mi duol che tu m'hai colto nella miseria dove tu mi vedi, che quando fui dell'altra vita tolto. Io non posso negar quel che tu chiedi. In giù son messo tanto perch'io fui ladro alla sagrestia di i belli arredi, e falsamente già fu apposto altrui. Ma perché di tal vista tu non godi? Se mai sarai di fuor dai luoghi bui, apri gli orecchi al mio annunzio e odi. Pistoia in pria di neri si dimagra, poi Fiorenza rinova gente e modi. Tragge Marte vapor di val di magra, che è di torbidi nuvoli involuto, e con tempesta impetuosa e agra sovra campo Picen fia combattuto, ond'ei repente spezzerà la nebbia, sì ch'ogni bianco ne sarà feruto, e detto l'ho perché doler ti debbia. Fine del 24° canto dell'Inferno.